Questo è quello lì. No, bello suono. Cioè. Bellissimo. Ma quello che fa bene. Bellissimo. Ah, ve ne sono visto.